tutti, mi sembra il minimo. Questo è il secondo appuntamento della serie organizzata da Alberto D'Amico per raccontare 34 anni di Studio Campo Boario, delle sue varie determinazioni, formulazioni, anche nominazioni. E la volta scorsa sono intervenuti da aiutami Alberto, che c'è un vuoto. L'anno scorso anch'io ho un vuoto con Marco Giovenale. Marco Giovenale. Massimo Arduini, esatto. Marco Giovenale. Massimo Arduini è uno dei 13 di Blocco 13, esatto. L'associazione culturale per l'arte contemporanea. Ma lì abbiamo un foglio, mi sa che ci sono scritti, vero? Ma che figuraccia! Oggi invece. Oggi tutti altri relatori che Alberto ora spiegherà. Sì. Allora, in ordine sparso, Gianni Piacentini. Franco, no, vabbè, gli artisti innocenti, scusate. Allora, non riesco a fare artisti innocenti. Ne mancano. E ne mancano. Massimo Martella, Ada De Pirro, Janine Claudianizza, Giulia Serventilonghi. E stiamo aspettando Melissa Lohmann, che arriverà più tardi. Facciamo parlare per ultima. No, lei farà una performance. Ah, no, lei fa una performance, certo. Sì. Allora, inizio io e vi racconto che nel 91, così a me, a Claudio Bonuglia, che è il coautore del dipinto del cavallo. Non è un dipinto, ma è un graffito. Un graffito a fresco, ma anche di questo graffito a fresco, perché anche questo è un graffito, non è un dipinto, che era stato esposto alla primissima mostra dello Studio Campo Boario. Quindi Claudio Bonuglia e io, e Giovanni Lamorgese, anche lui studente di Accademia, studentelli di Accademia, abbiamo deciso, vabbè, ma facciamo una mostra in questo spazio. Si chiamava all'inizio Spazio Campo Boario, o Spazio Boario, insomma, comunque non aveva definizione. Se non lo sai che, non nessuno, allora, io non so niente, perché io sono affetto ormai da... come Collegno, come era quello smemorato di Collegno. Però mi sta un po' stressando. Mi levo. E adesso spogliati, come sai fare tu? Grazie, va? Ecco. Oh, grazie. Va bene, insomma, nel 91 ci siamo. Ecco. A cavallo dietro. Nel 91 ci siamo lanciati in questa operazione. Allora, precocemente, dopo il 91, nel 92, Janine mi propone un incontro. Puoi iniziare a parlare tu da qui, va? Facciamo così. Sì, dai, ci incastriamo. Ci incastriamo. Allora, tanto grazie per essere niente ringraziamenti. Uno lo devo fare. Vi ringrazio di aver ricordato che le prime domeniche di maggio, che scrivevo insieme a Massimo Arduini, erano degli incontri tra artisti dove si passava una giornata insieme in galleria, quindi era, diciamo, non rivolta al pubblico, era una giornata nostra, si iniziava la mattina, alla sera poi ricevevamo il pubblico, raccontando anche un po' quello che era successo e soprattutto attaccando poi le cose al muro, ci siamo divertiti da morire. Io ho fatto un po' di fotocopie dai video, perché adesso poi ve le faccio girare, insomma le lascio un attimo lì. E la cosa divertente è che nessuno di noi, diciamo, creava un ostacolo estetico, tutti collaboravano al tema. Per esempio, il tema poteva essere: Zia è nuda e non sa cosa fare, perché l'ho trovato. Sì. Allora da lì si partiva con o un disegno o un enigma, o c'erano tante schede che noi riempivamo. Un'altra, per esempio, è questa esposta. Premetto, scusate, che poi anche i professori dell'Accademia venivano a trovarci, e venne a trovarci Nato Frasca, di cui sono, insomma, molto orgogliosa, perché all'epoca lo scarabocchio che lui insegnava all'Accademia è poi stato un mio stile in cui sono entrata. Psicologia della forma e percezione, sì, e teoria della percezione. E teoria della percezione, sì, all'Accademia. Sì. Quindi, insomma, era una persona a cui ero molto affezionata, E in questi incontri, in ogni caso, noi facevamo poi l'incontro finale con il pubblico. E il pubblico, ci sono tutte persone che poi sono diventate anche grandi artisti, che però in quel momento, insomma, sono venuti a trovarci, quindi ritroverete un po' di persone che erano curiose di noi. E successivamente, vado un po' avanti. Sì, sì, sì, perché... Successivamente, perché? Ho portato, sono stata negli Stati Uniti a lungo, quando sono tornata Alberto mi ha invitato a fare una mostra sullo yoga, perché lì avevo iniziato a fare yoga e in Italia ho iniziato anche a farla diventare una mia professione. Precedentemente a questa professione sono stata assistente del direttore regista Lindsay Camp per molti anni, quindi avevo quel lavoro che era più, diciamo, virato nell'artistico. Ma per pagarmi gli studi ho sempre insegnato qualche cosa di ginnico e quindi quando sono tornata ho deciso che sarei mantenuta così. E quindi c'è stata questa grande mostra nella sala principale di Alberto con questi grandi quadri che, diciamo, erano bianchi e blu su canvas non trattata. E per concludere abbiamo fatto anche una performance psicofisica finale nel suo garage. Dovete andare a vedere lo spazio di Alberto, che è eccezionale. Più o meno lo conosciamo. Sì, buona parte. Qualcuno purtroppo no, ma sono contenta che li possiamo invitare. Quindi ci sono, diciamo, queste esperienze dove, per esempio, Enrico Blasi, che è un fotografo bravissimo, Luigi Pagano, che è un pittore straordinario, in quel periodo. Scafati. Vicino Pagano. Scafati. O Shishan. Insomma, vicino Scafati. Sì, perché io sono entrata, quando sono tornata dagli Stati Uniti, in contatto con Mirella Chiesa e Mary Angela, difficile dire la Scrooge, che fecero, diciamo, mi fecero conoscere tanti artisti importanti, tra cui appunto Luigi, che noi invitavamo sempre al Campo Guaio. Poi c'è l'architetto Claudio Locardi, Massimo. Sì, di Claudio Locardi, diciamo, di Claudio Locardi vorrei parlare, perché Claudio Locardi ha avuto un problema di salute e quindi non ci sarà in questi tre incontri. Però Claudio Locardi è stato un po' un caposaldo, perché appunto, come dicevo, Claudia Janin ha importato, ha dato il là a questa polifonia, cioè nello studio noi abbiamo fatto interagire all'inizio arti visive e cinema, e qui c'è Massimo Martella che ha frequentato il centro sperimentale con me, e quindi precocemente lo studio si è costituito non come una galleria, ma come appunto uno spazio, un centro dove appunto tentavamo di fare il più possibile incontrare tra loro diverse discipline. Questo poi è diventata cosa? Claudio, no, lo conosci? Ah, vedi. Vedi, è stato male, ha avuto un problema di salute, insomma, però sta bene, sta in via di guarigione, però insomma, ecco, non ci sarà. Comunque con Claudio abbiamo organizzato tantissimi eventi dedicati all'architettura, abbiamo partecipato alla festa dell'architettura indetta dall'Acquario Romano, ma tante cose, insomma, poi Claudio è una persona così ricca e di interesse, quindi insomma, diciamo, non si limita solo all'architettura. Quindi no, volevo dire questo, certo, proprio Claudio perché... Claudio Locardi è stato, diciamo, il mio compagno per vari anni e abbiamo fatto architettura insieme 6 anni. Poi io ho lasciato architettura e sono entrata nell'accademia grazie a lui. Mi diceva, ma smettila di sbattere la testa contro la matematica, vai a fare la pittrice. Grazie a Claudio Locardi. Yeah. Massimo Arduini anche l'abbiamo citato, perché qui vedete una foto del suo video, bellissimo, Tangos. Sei tu? I piedi, sì. I piedi, come... Però abbiamo anche coreografato per creare questo video, insomma, abbiamo studiato un tema in modo che si potessero vedere delle forme disegnate dai piedi. Spero che faremo un'altra proiezione, perché è un bellissimo video. E poi c'era Anina Servizi, una artista iraniana, italo-iraniana. Italo-americana, iraniana, che era talmente brava che ognuno di noi ha capito delle cose grazie alla sua pittura. Lei faceva una pittura anche a sbalzo sulla carta, te lo ricordi? Sì. Aveva questo, questa modalità, cioè, persiana, però con intrecci, insomma, contemporanee, bravissima. Quale altro artista abbiamo lasciato fuori? Enrico Blasi l'abbiamo nominato, ma forse Enrico Blasi lo devo ancora descrivere meglio. Lui è stato il primo fotografo che ha fatto delle foto agli artisti, ballerini, attori, nudi, sul suo famoso trabattello. Non so se l'avete mai sentito nominare. Questo trabattello, e io ho fatto una mostra contemporanea con la sua arte fotografica e la mia pittura. E allora, quando sono tornata dagli Stati Uniti, gli ho detto: posso fare anche io le foto sul trabattello? Figliore. E Vogue e Repubblica Donna ci hanno pubblicato queste cose, poi abbiamo fatto anche delle pubblicazioni noi, perché sono uscite fuori delle bombe di yoga viste, diciamo, dal basso verso l'alto. Ma anche tango, insomma, diciamo, poi, e anche tu dei hai fatto pezzetti, interagire yoga con il tango. Con dei pezzetti di cose che c'erano dentro. Scusa, la domanda ora viene istintiva, ma eravate ignude? Anche voi? Allora, io ho messo una calzamaglia trasparente, no, ma uno capisce perché lo pubblicano poi, capito? No, siamo stati pubblicati per un altro motivo, perché sembrava yoga sott'acqua. Ci telefonavano proprio per chiederci: ma voi insegnate yoga sott'acqua? Dice: scusate, c'è la respirazione Ujjayi, non si può fare col respiratore. Però è stata un'altra esperienza importante, e quindi abbiamo avuto un lavoro di Enrico Blasi, che comunque è uno dei 10 più importanti fotografi nel mondo. Una cosa che ti voglio chiedere, così faccio qualche domanda, ma quando voi avete fatto con Massimo Arduino, parto dalla prima esperienza, questa di fare un incontro tra artisti in uno studio e poi la sera si apre lo studio, evidentemente in quella giornata, in quel maggio, avevate, tra l'altro siamo a maggio anche adesso, quindi è una bella coincidenza, avevate prodotto qualcosa. Sì. Questo, in qualche modo, lo spazio di Alberto veniva incontro a una vostra esigenza che altrove non avreste potuto, cioè mi sembra di aver capito che gli spazi come quelli di Alberto, già diciamo ai primi anni 90, evidentemente offrivano una alternativa al sistema un po' bloccato delle gallerie. No, sto facendo la domanda, quelle come fanno nel calcio, la domanda che è già la risposta. Ti ringrazio. No, sì, immagino, sì, perché sì, no, dico, come mai. Alberto è una figura da super valutare a Roma. Super super and bad bird, perché lui ha consentito a tantissimi artisti che però non avevano il critico d'arte o non avevano dietro una figura che li portasse. A trasferire le loro operazioni con molta sincerità e anche senza dei costi che le gallerie o i luoghi hanno, quindi dando la possibilità alle persone veramente di esprimersi, di parlare, di discutere, di aprirsi al pubblico. E infatti in questo noi, io e Massimo, insomma, siamo stati appunto... Ma poi quella giornata, scusa se ti interrompo, sì, abbiamo iniziato i famosi giochi d'arte. Parlane. Sì. Ma diciamo, forse ne parlo dopo, però okay, volevo dire che quei giochi d'arte poi hanno prodotto altri giochi letterari, e volevo qui chiamare Giulia Serventilonghi, così... perché ci siamo appunto dedicati poco prima del Covid, quindi è stato così un po' un momento, non abbiamo scelto il momento ideale, però comunque avevamo già gettato dei semi e poi sono ripetuti. Se vuoi raccontare... Sì, no, mi veniva in mente il fatto, il discorso dello spazio di Alberto, che sicuramente anche dal punto di vista della nostra esperienza di scrittura aiutava, no? Perché è uno spazio ampio in cui ci sono diversi ambienti, quindi ogni volta che ci incontravamo noi nei nostri incontri era sempre in un posto diverso. Questa destrutturazione del luogo rappresenta anche un pochino quello che era il senso del nostro laboratorio, che era un laboratorio di scrittura non convenzionale, in cui non c'era un insegnante, non c'era un luogo fisso in cui ci sedevamo sempre lo stesso, non c'erano anche sempre gli stessi partecipanti per lungo tempo, quindi questa fluidità sicuramente favoriva anche per quanto riguarda la scrittura la creatività. Diciamo che non c'era il giudizio di un insegnante, non c'era l'ansia del dovere in qualche modo, no? Rispondere a qualcuno che era più bravo di te o comunque adibito ad esserlo da qualcun altro, eravamo alla pari, ecco, e quindi questa cosa è stata molto bella. E poi c'era la componente del gioco, ma non penso neanche tu te lo preparassi, no? Il gioco che avrebbe poi portato. No, c'era un'improvvisazione, poi sì. Ognuno era anche chiamato a proporre giochi, nel senso, diciamo, forse io ne ho proposti sì, anche sì. Luca, no? Ti ricordi? Anche Luca ha partecipato, sì. Insomma. E poi appunto Luca dal Venitucci, gioco che poi ci regalerà forse una perla. E quindi poi dal gioco la cosa veramente per me, che non sono una scrittrice, no? Trovarmi dal mio mondo, dalla mia normalità, alle 6 ci incontriamo, cominciamo a scrivere di punto in bianco un gioco, effettivamente davamo vita a dei racconti, dei personaggi, veramente in maniera per me incredibile, cioè stupefacente, la creatività come su un foglio bianco, dico che cosa scriverò mai? 20 minuti di tempo, avevamo sempre il tempo, sì, no? Questa cosa inizialmente dico, ma com'è possibile? Come posso? Sì. Cioè questo foglio bianco, come posso io in 20 minuti creare un racconto a partire da, per esempio c'era il gioco, era ognuno doveva raccontare un episodio, anche modificandolo del proprio passato, della propria vita. E la persona accanto a noi, forse questo Luca c'era quando abbiamo fatto questo gioco, la persona accanto a noi doveva rielaborare quel racconto in un altro modo, liberamente, quindi trarre ispirazione da, ovviamente, com'è possibile, e invece veniva fuori sempre qualcosa, non c'è stata mai una volta in cui ho detto non so che scrivere. Ed è insomma. Ma ci siamo, vuoi raccontare come ci siamo un po' arenati? Arenati. Deve raccontare anche i fallimenti. Anche i fallimenti. Attenzione, no? Alle zanzare, scusate, ma mi hanno invitato, ma sono venuto lo stesso. Il fallimento è venuto quando abbiamo tentato di fare il salto del racconto. Volerlo rendere a più voci, pubblico, no? Sì, quindi, ma anche a più voci. Diciamo, quello è stato. Cioè, standardizzarlo, non è... volerlo rendere qualcosa forse di. Più aderente a dei modelli. A dei modelli, esatto, perché l'ultima edizione, insomma, il gioco è stato, pensiamo a 4 personaggi, quindi abbiamo ideato 5 personaggi, e ognuno ha estratto il personaggio che avrebbe poi portato avanti, e quindi in ogni incontro si portava avanti la storia di questo personaggio che interagiva con gli altri personaggi. Scegliendo come Roman Polanski un periodo storico preciso. Roman Polanski lo potete vedere lì travestito da donna nell'inquilino al terzo piano, e abbiamo scelto il capodanno tra il 99 e il 2000, e che appunto poi Roman Polanski ha fatto proprio il film, ma noi non lo sapevamo, noi l'avevamo scelto prima. Sì, ma... come il libro sul Papa, un clave la serie. E quindi è stato bellissimo, abbiamo prodotto sicuramente qualcosa di interessante, però è stato anche un pochino il nostro blocco, perché poi è diventato come diamo forma a questo, poi è diventato un piccolo romanzo a quel punto, perché ci abbiamo lavorato parecchio, 6 mesi, una volta a settimana ci incontravamo, insomma c'è una storia, ce l'abbiamo nel cassetto, però quando poi abbiamo voluto dare una forma, in modo da presentarlo anche magari al pubblico, fare una serata di lettura, non ce l'abbiamo fatta. Beh, non dovete adesso, cioè avete comunque già fatto molto, perché se ci avete lavorato un anno, non è detto che tutto, anzi è un intelligente chi si ferma prima se non ha... No, pieno di romanzi o di cose inutili fatte evidentemente, la selezione l'avete fatta voi prima, ma questo non significa che questo semi non ha generato. Questo del blocco che hai detto, non ci siamo stati in stato di blocco, a parte qui dentro questo ci piace tanto, ecco. Cioè il momento di blocco che però tutti davanti alla pagina bianca per scrivere o la tela immacolata hanno quella fase là, però è sempre prodromica alla creazione di qualcosa. Certo. Ecco, ma quello che invece chiede ad Alberto, ma forse la tua creatura è una creatura che diciamo con grande libertà sparge semi, polline, così, e poi la fase successiva, quella che è più difficile, è quella di costruire poi il palazzo, o cioè, te lo chiedo come... In fase di consultivo. Abbiamo scelto, mi sono inventato questa modifica dello slogan del maggio francese, che era Se ne candebu, continuons le combats in originale, mentre invece l'ho sostituito con continuons le debuts, Noi iniziamo sempre cose, diciamo, non ci poniamo l'obiettivo di completare, ma siamo amanti della fase aurorale di ogni cosa. Quindi, ma io volevo adesso, diciamo, partire, perché cerco di fare un po' di collegamenti, per arrivare a partire dall'incontro del 92 a un evento che si chiamò Boario. In questo evento Boario furono presenti sia Massimo Martella presentando dei lavori cinematografici. L'incontro si chiamasse Boario. Boario, va bene, insomma è quella volta. Sia Una notte bianca ci siamo inventati con gli artisti innocenti che sono qui alla mia sinistra. Non so chi di voi vuole raccontare Costanza Zimmer, volete dire qualcosa about oppure no? Sì. Ecco, gli artisti innocenti innazitutto. Esatto. Avete sempre queste magliette o le mettete soltanto per... solo per... prima di ho conosciuto Alberto. Ecco. Cosa? A Mas. Ti abbiamo da Mas, certo, come no? Come no? Lì sì. Perché io avevo questo 45 giri che si chiamava Samba di Mas e l'abbiamo ascoltato su un vinile con un giradischi. Mangiadischi? No. Mangiadischi magari, era un 45. Samba di Mas. E quindi riutilizzato per uno degli eventi perché gli artisti innocenti fanno progetti molto differenti nelle lunghe abbiamo di attività e abbiamo fatto cose molto differenti le une dalle altre. A proposito di Mas, è stato un progetto legato al fatto che questo famoso magazzino che stava dismettendo aveva le vetrine ormai in disuso e noi abbiamo contattato questo negozio, incredibilmente è nata un'occasione espositiva in cui hanno partecipato tipo 20-30 artisti. Magazzino allo Statuto? Quello... Sì, Magazzino allo Statuto, il progetto si chiama Caterini Cambi d'Artista, insomma. Scusa, ma il cane è il tuo, no? Abbaia perché sente la luce. Sì, sente la mia. Facciamolo entrare, se no. È meglio di no. E dunque, quindi, per farla breve su questa premessa, Camerini ha avuto varie vicende, perché da questo primo evento espositivo, che è stato clamoroso, nel senso che il magazzino che stava chiudendo in realtà si è messo di nuovo a vendere, addirittura lì stava tanta presenza d'arte, addirittura hanno cominciato a rivendere le croste che avevano sempre venduto, oltre al solito abbigliamento. Tanti artisti si sono sbizzarriti a fare eventi, lo stesso Luca Venitucci ha suonato davanti all'ingresso principale. Dopodiché è nato un secondo Camerini d'artista, se non che poi c'è stato un terzo evento, perché il tutto è durato tipo 6-8 mesi, cioè questo magazzino non cedeva mai, finché man mano però andavano effettivamente svuotando gli spazi e ci hanno concesso anche un intero piano interno, per cui abbiamo fatto un evento davvero pazzesco in cui 30 altri artisti, alcuni coincidenti con i primi eccetera, hanno fatto un happening dove tutto succedeva contemporaneamente e si chiamava Fuori Tutto, guarda caso. E poi abbiamo fatto una perlustrazione sotterranea performatica dove appunto ci serviva come colonna sonora il 45 giri in questione. Quindi ma ci serviva stato... pure un neonato? Ma poi bruci la città, io mi ricordo. Cos'era? A un certo punto Nerone, c'era qualcosa sì, di più. Tu eri il neonato. Esatto. Certo. Ah, sì. È un neonato. Abbiamo messo Alberto in una culla. In una culla. Dopo che avevo abbandonato. Che era un carrello che. Ma questo a Damas siete partiti fino a. No. No. Siete arrivati a Campobuario? No, perché Campobuario è un altro evento. Ah, okay. Infatti questo è un problema. Digressione. Però insomma è una digressione che è divertente perché abbiamo ipotizzato che questi labirinti sotterranei arrivassero fino al cosiddetto auditorium di Mecenate. Certo. E quindi si incontrava Mecenate, si incontrava Papa Pasquale II, che abbiamo fatto diventare napoletano, ed è quello che ha distrutto il mito di Nerone, che fino ai suoi tempi era seppellito in Piazza del Popolo. Però bando alle ciance, insomma, abbiamo fatto molte bravate, per cui abbiamo incontrato l'Alberto, che poi ci invitò insieme a Garrera. Sì, sì, sì. L'evento Boario, diciamo, è un evento ideato da Giuseppe Carrera, Marco Giovenale, Luca Venitucci e me, ed è stato realizzato in 3 giorni, è stato forse l'evento, poi ce ne parlerà Giuseppe Carrera il 3 martedì prossimo, meglio, diciamo, uno degli eventi più corposi dello studio Campo Boario. Qualcuno così l'ha definito una mini biennale, perché insomma... volete raccontare Costanza Zimmer? Sì, no, voglio dire solo una cosa, sì, che c'era anche Pietro Iusti, c'era che sbiancava il denaro. Io volevo portare la moneta sbiancata da Pietro Iusti nello studio Campo Boario. Spiega meglio, perché non riesco più. Allora, Cesare Pietro Iusti è un artista che ha fatto... Beh, adesso sappiamo. Abbiamo iniziato i nomi primitivi. Diciamo, l'operazione consisteva in questo. L'incauto, diciamo, personaggio del pubblico poteva offrire la sua moneta, che poteva essere da 50 in su, fino a 500, mi pare che abbia sbiancato anche una moneta da 500 euro, e lui agiva su questa moneta con degli acidi chimici e ti restituiva la moneta bianca. Quindi io adesso ho questa mia opera di Cesare Pietro Iusti, che ovviamente vale molto di più delle 50 iniziali. E questa è l'opera. Noi abbiamo fatto in modo che lui finisse presto, perché dovevamo in teoria occupare l'appartamento per una notte intera. Sì. Questo nel primo dei due interventi che abbiamo fatto. Sì. E dunque gli artisti innocenti si riuniscono e fanno l'autecene, e si divertono e cominciano a inventare che cosa fare in un preciso luogo. Quindi in quel caso avere un appartamento che avevamo visto fermo, tranne qualche Superman presente, era fermo agli anni 50. L'appartamento dell'asilo. Sì, diciamo, c'era anche una grande impronta del 1910, quando è stato costruito. Quindi cioè, poi sì, con qualche... Sì. E quindi in questo contesto così gozzaniano era fondamentale mettere qualcosa di consono, e quindi è nato il progetto pensionato signorile Costanza Zimmer. Subito è evidente che c'è la stanza e c'è anche Zimmer, e praticamente abbiamo inventato dei personaggi eccentrici. Chiunque arrivava nel corso dell'intera notte, riscaldato dal caffè che uno di noi continuava in cucina a far bollire continuamente, macchinette da caffè, come se piovesse. Sì, c'era una ventina, sempre in ebollizione. 20 kg di caffè. Infatti, i numeri. Dunque, quindi c'erano tutti personaggi eccentrici di questa temutaria, che era una di noi particolarmente procace, e con una sorpresa a proposito di nudità che poteva a gonna alzata rivelarsi, preservativi lasciati in giro per tutto l'appartamento, dico le note più clou, e poi questi personaggi eccentrici che o lussuosi di loro o a chiedere l'elemosina da qualche parte. Uno di noi era Pietro Straccio, che chiedeva l'elemosina in giro e riusciva. Straccio, proprio il cognome è quello suo? I personaggi. Ah, i personaggi, no? I personaggi, no? Perché però poi. Davide Cortese, come si chiamava Davide Cortese? Bugiardini, che era un malato immaginario, esatto, che aveva sempre. Le urine, diciamo, sì, ma le sembrano chiare, non le sembrano così. Poi si metteva pure alla finestra a gridare, aiuto, aiuto. Un applauso per Melissa Loman, che è appena entrata, che è, diciamo, l'ultima relatrice, ma soprattutto performer della serata. insieme a Flavio. Ciao. Allora, a questo punto dite voi qualcosa sì, su di allora, ed, tutti questi personaggi fingevano di essere ricchi. Chi andava a raccogliere le monetine e poi diceva io sono un personaggio e quindi diceva quattro soldi in tutto. Tutti quanti erano spiantati ed erano tutti finanziati, perché questa Costanza Zimmer era la tenutaria, era anche molto esosa, voleva un sacco di soldi, e questi non avevano una lira. Quindi come venivano finanziati? Venivano finanziati da un personaggio strano che si chiamava Alambicco. Questo Alambicco faceva dei veleni potentissimi. Questi veleni potentissimi servivano a conquistare dei partner che in quel momento erano un po' retrivi, oppure a farli morire anche. Quindi questi veleni erano reversibili e non reversibili. E messo dentro un bagno, lui incastrato in una cosa piccolissima, vendeva questi. Tutti i visitatori davano un sacco di soldi, con questi soldi io finanziavo tutti quanti gli altri, perché non c'avevano una lira. Vi dovete anche immaginare come era vestito. Era portava il costume di mio figlio, che era piccolo allora, e lui era l'unico che li stava. E io gli avevo fatto come papageno, aveva tutte le piume. Certo. Beh, avevo diciamo tre costumi. In uno di quelli scomparivo, o perlomeno ero convinto di scomparire, e quindi nessuno mi vedeva, nessuno mi toccava, io mi aggiravo e appena mi mettevo questo manto diventavo invisibile. Poi in un altro invece vendevo questi veleni, e si chiamavano proprio, ero un velenista. E poi c'era anche un ultimo personaggio che, siccome lì molti sniffavano ed erano pericolosissimi gli ospiti, quindi gli ospiti e gli ospiti anche veri della mostra erano un fumo, quindi io avevo una maschera antigas e con questa maschera antigas mi difendevo da tutti questi personaggi. Ma i personaggi che c'erano erano tanti. Lei per esempio era un'architetta occupata, perché Ikea come mediatore. E questa era la seconda volta, questo è il concertino, la prima volta ero stato appena licenziato da Ikea, io che ero un architetto degli interni. Sì, la seconda volta avevo fatto il corso al comune. Ma ci date i due, almeno gli anni? 2018. Il primo e anche il secondo, perché dopo un mese mi pare, no? E la seconda, quella da investigatore, andava un po' peggio, perché da investigatore tu devi bere pure il Manhattan, no? Cioè un cocktail fatto col whisky, eccetera. E c'era pure chi si è ubriacato poi quella. Ma Costanza Zimmer poi aveva una figlia, Guglielmina. Terribile, ma. Aveva anche un fratello, sempre uno di questi personaggi, un pilota della Formula 1, ubriacone. Sì. Tutti, immaginatevi pure tutti travestiti come tale, no? E dunque stava sempre lì sul suo divano, nel salotto. Avete mai visto un pilota quando esce dal suo abitacolo? È una mummia praticamente, è una cosa rivestita di amianto e lui, sempre vestito da pilota appena uscito dal suo abitacolo, si ubriacava, quindi era sempre ubriaco e tutti quanti se lo trovavano tra i piedi. Una cosa impossibile, però... Ma sto rumore della carriera, wow, era fissato che lui viveva 24 ore su 24 all'interno di Le Mans oppure non so, e quindi aveva queste macchinette che giravano mentre lui dormiva, intorno gli giravano tutte queste macchine. Ma avevamo pure la donna di servizio, più o meno, sì. Spolverava. Questo è tutto accaduto in una notte? Due notti. La prima volta era tutta una notte, poi invece la volta successiva era concertino, pomeriggio, tra l'altro tutto incentrato sulla figura di Luca Venitucci, che vestito da maestro d'orchestra, direttore, insomma da comunque da musicista. Cantavo Nessun Dorma, che era probabile per me. Quindi però sì. Insomma la strategia era quella. Mi avete anche trascinato. Ah, no, sì, infatti abbiamo sfruttato questo suo essere già stato un neonato l'abbiamo fatto regredire a uno stato infantile in cui si faceva trascinare da quello stesso abbandonamento. Mia nonna mi trascinava su una coperta e mi faceva attraversare tutta casa, e quindi io con un dito in bocca ho fatto... E ti sei divertito tantissimo. Però insomma, qual è l'idea di fondo? Dico solo questo perché sì. Sennò non si comprende il senso della cosa, perché qualsiasi dettaglio è parzialissimo, nel senso che avvenivano milioni di cose. Posso dire da utente, la mia memoria di quella cosa lì, essere arrivata una gabbia di matti, però non sapevo, volevi essere ubiquo perché avevi paura di perderti qualcosa, per cui giravi continuamente e dici che succede qui, ma qui cosa succede, e quelle cose tu dicevi ma non succede niente, poi ti arrivavano addosso, era questa sensazione per cui era molto difficile sganciarsi e era coinvolgente, cioè era ubriacante, e se l'obiettivo era questo era perfettamente riuscito. Diciamo, la strategia era proprio quella di creare un cortocircuito tra una festa liceale e una multi performance dove appunto non c'era confine. Anzi, mi viene in mente una delle cose più divertenti che succedeva: uno dei personaggi era un collegiale, uno studente universitario greco che si trovava lì, e ogni volta che entrava una donna, per regola, lui era solo, molto bello, era molto bello, molto bello, insomma la corteggiava disperatamente, la portava alla finestra, le leggeva i sepolcri, chiaramente vista sulla piramide, era perfetto, e cioè ogni situazione davvero... appunto precisamente questo comportava il sapere che altrove stava succedendo qualcos'altro. Vi voglio dire cosa facevo io, scusate se adesso ma avevo una forse la seconda parte della Vestaglia. Dunque facevo in un'occasione il progettista del ponte di Messina attuale e sempre attuale, lo sarà per i prossimi secoli, e quindi all'epoca però era molto più cocente la questione, e poi ero il, dato che non avevo riscosso riscontro come ingegnere, in realtà mi ero dedicato a fondare un partito politico, ed era il partito politico della Tovaglia, di cui c'erano manifesti, possibili discorsi, e chi entrava doveva essere uno dei rappresentanti dello stesso partito, per cui molti si sono prestati a fare un discorso politico a favore di questo partito, che era comunque fornito di falce e martello, veri per la parte metallica, ma coi manici in gomma piuma e quindi mosci. Hai in un certo punto hai raccontato come qual era il tuo ruolo, però ti sei interrotto perché stavi dicendo il senso di questo nuovo ruolo. No, il senso era proprio quello che ti ha detto. Sì, no, la questione di fondo era di inventare in un contesto casalingo una festa talmente esasperata dove veramente c'è parossismo. Non peraltro la seconda fu veramente parossistica. Io temetti un po' perché l'appartamento, lo conosci, insomma, è un appartamento abbastanza delicato perché costruito nel primo del Novecento e la maggior parte del mobilio è rimasta quella originale ed è stata vissuta soltanto dalla mia famiglia dal 76 fino al 2017 da mia zia soltanto. Quindi viene usata dal vitrovedere in diversi film, sì, perché lui sì, no, in Tonsa come. Sì, beh, l'ultimo è stato Il Signore delle Formiche di Gianni Amelio. Quindi, insomma, come dire, quando ci fu il secondo Costanza Zimmer, io ero veramente, perché è venuta una quantità di gente che mai in tutta, forse la festa di mia figlia dell'altro giorno, lì, però poi era una festa che appunto era, si spargeva nelle cantine, nelle cose. Però il numero di persone di quella volta lì non ricordo, non si poteva passare. C'è una documentazione video, ci sono micro video amatoriali, sì, fotografie splendide di vari fotografi, anche perché gli artisti innocenti, nonostante che di fondo non credono nella documentazione video, perché nessuno tanto più in questo caso dovrebbero esserci o 500 riprese, perché ciascuno spettatore ha una visione differente. Ma infatti questo per la cronaca risponde all'idea proprio dell'opera aperta, e cioè davvero ogni prospettiva è altrettanto sensata e deludente e magari divertente al tempo stesso. Comunque, per la cronaca, non per altro, noi presi dall'entusiasmo per questo riscontro che era smodato e ormai entrati nei personaggi senza più modo, ecco, a proposito delle tovaglie, una parentesi, abbiamo fatto un sbandieramento di tovaglie a Tormarancia per un festival dove tutti gli inquilini hanno usato le loro bandiere, cioè le loro tovaglie, portando la dimensione casalinga in un intero quartiere. Comunque, per chiudere, la nostra Costanza Zimmer non poteva morire lì, quindi l'abbiamo portata fuori, quindi abbiamo fatto una puntata seguente, ma giusto per dare conto del fatto che noi eravamo talmente convinti di questo personaggio di Costanza e di tutto il suo seguito che poi si è andato a trasformare col tempo, ma insomma abbiamo fatto una puntata di sfrattati e intorno a Piramide abbiamo cominciato a chiedere ospitalità. Sì, perché io devo dire che ero rifiutato, diciamo, perché mi avevano proposto di fare un funerale dentro casa. Sì, dovevamo fare un funerale di Bugiardini che giustamente era in fin di vita. Poi lo volevamo fare anche risuscitare, però. Lì un po' scaramanzia. Tempo aperto. E quindi siamo usciti fuori, perdono, voglio chiedere. Abbiamo fatto però interventi in musei, in altri appartamenti, finché poi siamo andati a finire pure in un bar di un museo, eccetera, eccetera. È ancora viva Costanza Zimmer. Un applauso a Costanza Zimmer. Dagli artisti, ma anche sul Tevere, mi ricordo. Sì, sul Tevere. Quindi erano già dei topi. I topi. Beh, poi, scusate, solo in flash, devo dire, una bellissima performance al Quadraro. Vestiti da, sì, completamente un altro genere, vestiti da nazisti prigionieri, quindi l'occasione della strella, questa è stata la della strellaggio. E passerei invece a Massimo Martella, che è stato mio collega di centro sperimentale nei lontani anni '80. E che però, insomma, diciamo, nello studio Campobuario ha rappresentato in parte, insieme a Tino Franco, insomma, insieme ad altre persone, diciamo, questo, insomma, l'anima cinematografica dello studio. C'è stato questo sottoprogetto, diciamo, che era Piramide Channel, non so quando sia nato con il nome. 2007, però le rassegne c'erano già da prima. Sì. Allora, io volevo iniziare dicendo, parlerò male di Alberto Lamico, poi ho detto no, se inizio così si arrabbiano, però c'è una frase che mi ha fatto riguardare lei nel libro, che io considero un pezzo d'arte strepitoso, dove Alberto si presenta come dilettante professionista. Allora, questa è realmente la scelta specifica delle cose che lui ha spesso organizzato. Io adesso faccio una gran fatica, come dire, a fare una cronologia, perché poi è confuso, poi c'è stato un periodo in cui io ci siamo frequentati di meno perché ero molto preso dal mio lavoro, insomma, di alcuni anni fa. Quindi poi dove ci siamo un po' ritrovati, volevo... Ieri sera abbiamo proiettato il mio tocco di Piero, un momentario bellissimo, sta su Ubi, quindi... Non è vero, non è vero, è una notizia falsa, e lo so, cioè, l'ho cascato anch'io perché una mia collega, io ho detto che stava su Ubi, speriamo di piazzarlo su Ubi. Spero che lo piazzi, no, perché poi è sempre così. Vabbè, comunque, non voglio fare giro. Ci sono tre linee conduttrici che guidano, a mio parere, il tipo di operazione fatta da Alberto e da Gino, va detto, nel corso degli anni, diciamo, dal punto di vista dell'audiovisivo. La prima linea di condotta, diciamo, è quella fondamentalmente: facciamo vedere cose che nessuno vede. Cioè lavoriamo sul prodotto indipendente, marginale, escluso, difficile o non difficile, che qui trova accoglienza. Questa sorta di operazione di mamma chioccia ha permesso ad alcune cose di grande qualità che per un motivo o per l'altro erano rimaste escluse dai circuiti distributivi ufficiali, oppure che erano state viste ma erano completamente uscite dal circuito, di avere una seconda o una prima vita o una seconda o terza vita in un contesto che lui dice, l'ultima volta che abbiamo a lungo discusso, perché abbiamo a lungo discusso del problema dei diritti, perché quando fai una proiezione affronti un problema, che è un problema burocratico, di non, che per qualcuno è un problema serio, cioè qualcuno può dire scusate ma con quale diritto proiettate questa cosa a gratis? Sì, è a gratis, cioè Alberto c'ha quest'altro vizio che non fa pagare mai niente, e questa cosa però ovviamente la dico in maniera ironica perché è un grandissimo pregio, cioè è un'uscita fuori dagli schemi che permette a questi prodotti di avere una visibilità che altrimenti non potrebbero avere in un contesto libero. Noi abbiamo avuto delle proiezioni, io me la ricordo, con 5 persone. E poi abbiamo avuto delle volte in cui non ci si stava dentro. Ultimamente abbiamo mandato via un sacco di quindi dipende, è così, dipende da quanto si riesce a organizzare la cosa, di quanto richiamo riesce ad avere in quel momento. Quando c'è in concomitanza quel giorno. Certamente, che poi è imprevedibile naturalmente. Sì. Quindi, diciamo, però questa capacità di andare a scovare cose interessanti, a volte semplicemente per via amicale, ma a volte no, non solo, perché certe cose ce le siamo andati proprio a cercare, è diciamo una delle linee di tendenza della programmazione, diciamo, di Campobuano. La seconda linea di tendenza è quella di un'attenzione per ciò che è, tra virgolette, pop. Ma non il pop che va di moda, il pop passato di moda. Questa è la cosa più interessante. Io ci troviamo molto su questo, cioè ci piacciono le cose demodé. Allora, per dire una cosa, noi lui da tempo, anche in Enigma, ci sono dei riferimenti ai caroselli. Io, a me è presa una fissa, io sono diventato un collezionista di caroselli, per cui sto trovando su eBay tutte le collection, tutti i DVD, e poi faccio una cosa perversa, che con la scusa che faccio un corso all'Accademia sul tema, in sostanza cosa faccio? Scorporo questi DVD, mi dissemino il computer di file dove c'è, che ne so, Lavazza, Paulista, Carmen Sita, oppure c'è sta... non lo so, Mina che canta una canzone X, e poi li vado e li rimetto in gruppo. E lui, con lui abbiamo detto spesso, facciamo una cosa di questo genere. Luca deve andare via, interrompiamo perché no, doveva fare una benissimo. mini pubblicità. Cioè, tu interrompi, quello sta finalmente qualcuno che spiega bene quello che fai, lo interrompi. Ma tu devi sapere, la pubblicità arriva sempre nel momento più interessante. Esatto. È il cliffhanger. Luca Venitucci. Sì, che cosa in brevissimo tempo? Io sono un musicista senza strumento in questo momento. L'unica cosa che ho, che un po' potrebbe rassomigliare a uno strumento, è il mio portapillole che tra l'altro contiene pillole per il cuore, per cui potrebbe essere definito un cordofono, però non emette suoni. E quindi, come dire, ci si può, se suona qualcosa ci si può immaginare una musica a piacere, come dire, che quindi magari però, è anche meglio di quello che avrei fatto. Però potresti suonarci un pezzo famoso, sì? Un pezzo famoso, sì. Allora, parlando di Carosello, sì, posso suonare un pezzo... Che so, qual era un jingle, che so, veramente piaceva, mi piace, no, Zucchi, la pubblicità di Zucchi. Com'era? Faceva così. Nimmon. Qualcuno se la ricorda Nimmon? No, dai, nessuno si ricorda, mi ricordo l'unico. No, mi ricordo quella. Cicchicci. Suona in Italia. Ricordo quella del Puntemessa. Appuntamento. No, sì, Puntemessa. Con Puntemessa. Però. No. Cambusa One. Cambusa One. L'americana. Ma come faceva la canzone? Cambusa One. L'americana. Allora, sì, se qualcuno canta io posso sì, suonare, ma mi diamo a tempo. Un, due, tre. Cambusa one, la maricante. Cambusa one, la maricante. Bellissimo, c'è anche un'armonia qua. È un'altra cosa di vocale. No, allora, a me, prendendo ispirato da questo quadro qua, e anche un po' da questo assemblaggio, mi avrebbe intrigato fare un accostamento musicale, per esempio, tra la musichetta di Batman, che è quella lì, e qualcos'altro che potrebbe essere in tema con... Però ci bisognerebbe conoscere qualche pezzo rinascimentale, io sinceramente madrigali rinascimentali... Qualcuno conosce dei madrigali? Forse Carl Orff, no. No, Carl Orff, no. Monteverdi, sì, è diciamo 100 anni dopo, però... Quindi per esempio di Monteverdi, non so, il combattimento di Tancredi e Clorinda, però io non perché io ho una, anche io sono sicuramente più pop che colto, e quindi non so, qualcosa che abbia una così una pregnanza. Una pregnanza un po' aulica, un po' che sì, cos'è? Non so, lo Stabat Mater. No. Sabbath Mater, esatto. Sì, molto pop. Quindi Pergolesi. Pergolesi. Qualcuno tu ti ricordi? Qualcuno si ricorda l'incipit della Sabbath Mater? Dolorosa. Aspetta, lo cerchiamo. Sì, siamo... sì. Come hai detto prima, i professionisti dilettanti, noi qui siamo i dilettanti dilettanti, ma vediamo. Mater, ecco. Stabat Mater, ok. Adesso suona. No, ovviamente c'è la pubblicità. O ce lo inventiamo, qualcosa che... Stabat Mater. Sabbat Mater Dolorosa. Vabbè, già questo sembra un po' sembrano più le cose delle processioni, sì. Però insomma diciamo quella, questa, abbiamo anche i canti delle suore, Papa, i canti delle suore, sì, ok. E quindi questo accostamento, sì, potrebbe funzionare così, che c'è bisogno, sì, della partecipazione del, sì, pubblico, sì, ovviamente, sì, no, uno dei capisaldi, sì, certo, supporto, per cui la musichetta di Batman, sì, diciamo, sì, per, chi vuole fare la musichetta di Batman, diciamo, io dividerei il pubblico, in dove da questa metà, decido arbitrariamente che questa metà qui, sì, può fare la melodia, sì, la musichetta, l'accompagnamento, sì, e quest'altra parte può fare il canto, no, sempre Batman. Poi si parla, cioè, lo Sabbath Mater Dolorosa, e sì, quindi la musichetta, ok, questa è quella, ok, accenno e così, e invece quest'altra parte può fare il Batman, ok. E quindi diciamo basta seguire, sì, i cenni, e sarà felicissimo, è bellissimo. Poi quando alzo le mani faremo lo stato di mente. Perfetto, sì, la stessa. Pronti? Sì, pronti, ci siamo. Ok. Allora, quindi quando io faccio il cenno così, e invece quando è Batman, poi è Sabbath Mater. Ok. Perché fra un po' abbiamo Melissa Lombard, ma prima abbiamo Ada De Pirro. Ada De Pirro. E allora, Massimo che è stato fondamentale, no, perché ci ha fatto capire che cos'è. Ma lui deve finire. Ah, finisco, sì, allora. Sì. La questione degli eventi pop, volevo ricordarne uno in particolare a cui sono molto affezionato. Che anno era? Come Andromeda? 2012 addirittura, no, secondo me dopo. Insomma, una decina d'anni fa ci viene in mente a me, Alberto, che belli che erano gli sceneggiati televisivi di una volta, sì. Che belli che erano, in particolare io quello che piaceva di più era Come Andromeda è stato uno dei must della fantascienza italiana in televisione. Una cosa in 6 puntate, tratta da un testo inglese, è ispirata a una versione già inglese, uno sceneggiato inglese fatto sullo stesso racconto, che ebbe un successo enorme in un'epoca in cui naturalmente i canali televisivi erano soltanto 2, ma era un lavoro veramente di grandissima qualità. Ci viene in mente organizzare questa cosa, però cosa c'è? Erano 5 puntate, non 5 6, puntate, o 6, 5, 5, però lunghe. E lui ha l'idea, facciamo una non stop, maratona. Per cui una maratona di Come Andromeda, Anna Di Pirro, che conosceva Paola Pitagora, esatto. Mi ha detto dovete chiamare Paola Pitagora. Noi eravamo così e l'abbiamo chiamata. È venuta nell'orario alla serata prima ad Hollywood Party, ha dato l'annuncio. Sì, ha detto domani ci sono dei pazzi. Esatto. Ed è stata un evento divertente. Ovviamente lei è arrivata. Ma che anno era? Non ce lo ricordiamo. Potrebbe essere 2013. Secondo me è 2013-2014. Vabbè, questo è facile, si troverà googolando, si troverà. Sì, sì, c'è, no, ma io poi c'ho tutto il materiale che avevo raccolto, no? Perché avevamo fatto molto prima, era giovane, molto prima, era giovane. Siamo andati a prendere, ero legatissimo a Dracome Andromeda, perché io ho scritto la mia prima scalettina di racconto influenzato una sera dalla visione dello sceneggiato, e io all'epoca avevo 11 anni, quindi una roba proprio precocissima, e ovviamente era una roba assurda quella che ho scritto io, però era molto forte questo impatto che condividevamo, e scoprimmo che molte persone lo condividevano. Quindi questo, da questo punto di vista, è una operazione di tipo pop. E poi ci sono i grandi eventi dove Alberto mescola un po' di tutto, e questa fa parte della caratteristica più interessante della sua estemporanea creatività. Io ovviamente non posso dimenticare un evento che ebbe un successo pazzesco, che era a base di Eros, adesso non mi ricordo come si chiama. Pornosismo. Abbiamo tentato di parlarne con Bruno Di Marino, che era uno degli ideatori, curatori. Però lui era un peccato. Ed è un peccato, perché forse... Perché viene identificato come un erotomane. Fu un evento anche lì delirante, folle, con una folla di persone che si aspettavano un laboratorio di bondage. Sempre con un intento, e qui chiudo, con un intento di carattere multimediale. Questa multimediale, perché poi mi ricordo la saletta dove c'era una proiezione, mi ricordo che si poteva prendere una cosa e vedersela per conto proprio, c'era teatro, esatto, c'era, teatro, c'era una frammentaria, Giovanna Floris, era una roba molto frammentaria, però viva, e quindi viva Sant'Alberto, nel senso che speriamo che questa germe continuo di creatività, che utilizza appunto materiali. Ora questa rassegna non è ancora terminata. Sì, è in corso, una corsa che appunto Massimo, Raffaele, Francesco Franco, Bruno Loturco, che ci sarà il 13, ed io abbiamo ideato e stiamo portando avanti. Che nasce come omaggio a Tino Franco, ma non soltanto a lui, anche ad altri nostri due carissimi amici che purtroppo ci hanno lasciato quest'anno, registi, anche loro di prodotti talvolta invisibili o comunque poco visibili, quindi questo è un po'... Uno dei film si chiama La collezione invisibile, quindi più visibile di così. Esatto. Ed è un documentario, un film dedicato all'arte. Però, ecco, l'ultima cosa, la credibilità di Alberto è tale per cui tu puoi avere... Dopo il regista totalmente sconosciuto che porta il suo piccolo cortometraggio, l'autore Guido Chiesa, che qualche giorno prima di uscire in sala con il suo ultimo film è venuto a presentare una sua vecchia cosa molto bella, e per cui questo, cioè, io credo che non è difficile trovare una persona che possa riuscire a unire due mondi in questa maniera. È un po' quell'idea che stavo, secondo me, di influenzare al mondo dell'arte, senza una gerarchia, ma al contrario invece in un modo orizzontale, includendo il più possibile persone che poi hanno voglia di venire, di mettere in condivisione insomma la propria esperienza, il proprio lavoro. Io credo che Massimo abbia descritto perfettamente quello con una coscienza che neanche l'autore ha. Anche per questo, diciamo, la rassegna di Blocco 13 ha voluto dare, rendere omaggio a personaggi della situazione romana, ma poi dal 23 di maggio ci sarà Gianni Baretta, che invece è di Alessandria, di artisti che hanno messo a disposizione il loro spazio e il loro tempo senza immaginarsi steccati, scuderie, sì. No? Alto, basso, volgare, aulico, sì. Ma dando voce a tutte le, diciamo, le piattaforme, le realtà della scena, quello che di solito il pubblico, diciamo inteso come istituzioni pubbliche, ma anche il privato inteso come gallerie o non fa, perché di solito segue altre logiche. Posso dire una cosa? Certo. Alberto è diverso, cioè nel senso che gli altri, una linea comunque c'è nelle loro proposte, no? Nel racconto, diciamo, dello spazio di Alberto non c'è assolutamente nessuna linea. Beh, già questa è una linea. È fantastico. Una linea di così. È una finestra senza vetro, potremmo dire. Cioè ci si passa in mezzo, ognuno porta dall'altra parte quello che ha, lui non è come se non filtrasse, però mette a disposizione la finestra. Alberto, riprendi in mano. Beh, sono un po' commosso, devo dire. Come sempre, mi commuovo spesso. Possiamo leggere delle poesie. Io vorrei introdurre Ada De Pirro, che è una mia carissima amica dell'Accademia, che non si ricordava neanche che stavamo in classe insieme. Molto legati, ma che ha organizzato, ha ideato, ha curato, ha presentato tante cose nello studio, e quando ho detto ma io che vengo a fare, ma io non ho fatto niente, e allora ho detto ma guarda che hai fatto questo, ma perché hai fatto un sacco di cose, ma perché non ne hai parlato? Diamoci un perché c'è il timing, sì, fuori è tutto pronto. Allora, siccome è stato nominato Enigma, secondo me Enigma avrebbe bisogno di essere presentato anche in questo contesto, perché Alberto, insomma, essendo tante cose, il suo spazio è tantissime cose, ma anche lui lo è. Insomma, è poeta, scrive libri d'artista, anche se poi è difficile dare la definizione di libro d'artista, quindi ce l'avete là. Assolutamente. Però è un libro d'artista, sì. Per cui ho avuto l'onore. Lui ha fatto una cosa, credo, come 50 presentazioni. Roma 9. In giro per tutta Italia. E quindi, non lo so, io credo sia il libro più presentato in tutta la le novità editoriali. Scusami, Ada, digli la copia che abbiamo qui in esposizione, digli dove l'ha comprata. Viene dal mercatino. Quella è una medaglia. Molto contento. Qualcuno a cui l'ha regalato, lui la sarebbe avuto. No, è senza lei, per fortuna è senza lei. Quindi, ma invece io che l'ho avuto in regalo è veramente un libro stupendo. È stupendo ed è un pezzo per dire quanto è il libro d'artista, sarebbe un libro che starebbe benissimo nella collezione del Guggenheim o Metropolitan, non mi ricordo, che ha donato Liliana De Matteis, cioè la moglie di la galleria, come si chiama, quella di Torino? Vabbè, Liliana De Matteis della galleria, non mi viene, no, Masoero, va bene. Ha fatto una donazione di centinaia di libri che sono stati presi negli Stati Uniti, che sono quei libri, diciamo, che non sono il libro d'artista inteso come il libro di Maria Lai, come Cristoffa, ma il libro edito con una dimensione, cataloghi di mostre o turisti, no? E quindi quello ci starebbe benissimo. Vabbè, anche agli Uffizi ci sta. Sì, agli Uffizi, alla Biblioteca di Firenze ci sta la più grossa collezione di libri d'artista, sì. Quindi potresti. Anche alla Classenza di Ravenna. E quindi lui questo fa queste cose che insomma forse conoscete tutti, perché tutti conoscete Alberto, però io, visto che sono appunto una donna senza qualità, allora ho pensato di leggere delle poesie di Alberto, se vi fa piacere, perché poi una per scelta, una che invece mi dà spunto di dire una piccola cosa che però finisco, cioè faccio presto, tranquilli. Allora, piccola poesia, l'infernale leggerezza dell'asfalto, uccidi gli UFO, da piccolo ero più bello di Brad Pitt, bocca, naso, occhio, l'ombra che cammina, focus su Libera, ti conosco mascherina, pietas, to, mio zio. My name is Bond Street, Helby Road, ultimi bagliori del cattocomunismo, selfie dopo Gerusalemme. Sono atterrato su un pianeta 3D. Nel prato finto sbuca l'erba vera, sips sui gradini, muso giallo, l'esta te sta finendo. L'opera d'arte o vandalismo? Sogni infranti, busti tipici, cartolina, piscina, più Batman e Robin. Due per uno, grossi capi. Cave cane, cripto, arazzo Superman, oggetto Rosebud, Kamai, rose, rosa seduce. La religione non serve a niente? La lotta di classe, il movimento, il tazzebao, le assemblee, l'entropia, le figure retoriche, il salto ontologico, l'eterogenesi dei fini, la mise en abîme, e patelle bourgeois, palingenesi, i genesis, Genève, gene gnocchi, ridi che mamma ha fatto gli gnocchi, Kant e l'ornitorinco, Kant è un porrinco, ontogenesi, filogenesi, genesis, la fine della metafisica, la fine dei supereroi, il declino dell'Occidente, ti prendesse un accidente, l'acciarino magico, il pensiero magico, il fenomeno New Age, la fenomenologia dello spirito, il fenotipo, il maschio alfa, alfa centauri, per aspera d'astra, l'australopiteco, l'austro-ungarico, il salame ungherese, la salamella piccante, le storie piccanti, il picco, il punctum, la semiologia, mia zia, la semiotica, la zia cianotica, la zia erotica, t'ho detto cotica, le Alpi retiche, pennine, le pontine, la forg, le fontaine, la flotta, il flottan, ontico, deontologico, i denti, irridenti, il redentismo, irritabile, stabile, non è il contabile, sei solo. Chiacchiere e distintivo, distinto, privo, letto, diletto, salvare caproni e cavoli, sotto la panca caproni crepa, crepa caproni che tutto va bene, le caproni del die. E ora come finisco? Ah sì, finisco così. E poi questo che mi ha fatto morire da ridere, il bambino giocava e quell'uomo gridava, state fermi. L'ultima, che mi è piaciuta tantissimo, che mi fa introdurre questo mio piccolo pensiero, che io identifico Alberto con il suo spazio e viceversa. Queste poltroncine ora sono in due sacchi neri. Queste poltroncine tra un po' si confonderanno con i rifiuti di tutta Roma. Queste poltroncine erano in camera dei miei genitori molti anni fa. Queste poltroncine erano di un colore rosa cipria. Queste poltroncine erano basse, su queste poltroncine mi sarò seduto molte volte. Queste poltroncine sono state portate in soffitta un tempo. Queste poltroncine, questo post è sulle poltroncine. Questo post sulle poltroncine non è ancora stato completato. Sto ancora scrivendo un post su queste poltroncine. Ora scrivo l'ultima frase di questo post sulle poltroncine prima di pubblicarlo. Era quella precedente l'ultima frase, ma mi accorgo che sto ancora scrivendo. Quindi ho mentito quando dicevo che quella era l'ultima frase di questo post sulle poltroncine. Ora lo pubblico, poi visto che è sabato e anche una bella giornata, andrò in giro per la città, per il centro che preferisco alla periferia. Queste erano le mie poltroncine, ce n'erano tante come loro, ma queste erano le mie. Le mie poltroncine sono umane come me, pertanto ho imparato a conoscerle come sorelle. Volevo fare una piccola riflessione partendo da questa. Allora, so se avete mai letto tutto il corpus di poesie del, dell'Alberto. No, perché non è stato ancora pubblicato. Va bene, nel suo corpus gli oggetti non compaiono mai. E sta cosa mi ha colpito tantissimo. Questa è l'unica poesia sugli oggetti che tu hai fatto. Ed è pazzesco perché Alberto forse è un oggetto esso stesso, anzi come tutti noi, però è un insieme di oggetti, perché lui proprio va in giro, compra oggetti, lui va tutte le sante domeniche a Porta Cortese e non torna mai a casa con le mani vuote, sempre con qualcosa, quindi casa sua è una cosa pazzesca. Allora questo mi ha fatto ragionare sul fatto, sì, è un'intervista questa, perché non scrivi? Perché ce n'hai talmente tanti che no, le parole non servono per questo? Cioè Ponge ad esempio non ti ha ispirato assolutamente? C'è qualcosa di più imbarazzante per Alberto D'Amico di rispondere alle domande in pubblico? Beh, vabbè, ma non è vero, è vero. Vabbè, era così, no, era una risposta, ma mi fa piacere che tu l'abbia osservato. E invece se tu me l'avessi chiesto io avrei detto ma ho scritto tante cose sugli oggetti, anzi, vedi che strano, sarà sicuramente vero. E però questa cosa degli oggetti appunto e di questo mescolamento che lui fa, effettivamente il suo spazio è un mescolamento di oggetti, i più disparati, alti, bassi, laterali, sotterranei, celestiali, c'è cioè filosofia, cioè quella è la cosa pazzesca dello spazio di Alberto, allora, che proprio riesce ad aggregare tante cose, come io l'ho pensata come un magnete, cioè tu hai creato un posto magnetico dove persone disparate o forse anche disperate si incontrano, sono felici, perché io sono felice quando arrivo nel tuo spazio, e così, cioè, crei felicità, un po' come il parrucchiere quando ti va a fare... cioè, io te lo dico sempre, no, veramente sono quegli spazi di gioia, no? Cioè, che secondo me è proprio bello. Comunque, tesoro. E comunque, io niente, ho fatto appunto delle cose così molto laterali perché ci sono qua degli artisti che si sono espressi. In realtà in antico pure io ero un po' un artista. Infatti, qui c'è una sua opera. Qua documentato con l'ultimo lavoro. E qui ci sono Silvia, Isabelle. Esatto. Comunque la mostra che ho fatto sulle ombre me la presentò Carlo Alberto Pucci, un testo meraviglioso, testo illeggibile, da lì è nato la Semico, perché il grafico, volendo fare una cosa strafiga eccetera, con un carattere che praticamente si dissolveva, non si leggeva niente, e lui era molto arrabbiato. Ma insomma non è che era veramente la Semico, non riusciva a leggere quello, nessuno sa che cosa c'avevo scritto. No, comunque è un testo stupendo, bellissimo. Vabbè, niente, quindi insomma, tra le tante cose che Alberto ha fatto e mi ha dato l'occasione, tra l'altro io ho imparato delle cose, ammetto, facendo questi miei piccoli interventi assolutamente umilissimi al suo studio. E ho presentato un bellissimo documentario su Gino De Dominicis fatto da un giovane regista, Jacopo De Bertoldi, che venne addirittura Mizzisotis, che fu molto contenta, mi ricordo, sì, poverina. Ok, poi ecco una cosa di cui mi voglio invece freggiare un pochino, certo. Abbiamo fatto io e Paolo Albani, che è uno scrittore nonché performer, insomma tante cose, toscano. Avevamo trovato, in Italia non ne avevano parlato, i collage di Wisława Szymborska. E quindi io avevo scritto per il suo sito un testo abbastanza lungo, e quindi Alberto è stato felicissimo invece di ospitarci, e prima che appunto invece questi collage fossero conosciuti, quindi ci hanno fatto una mostra a Genova, che poi è passata anche a Roma, e chiaramente in Polonia li conoscevano, per cui avevo comprato un libro in polacco per documentarmi, però insomma è stata una serata molto bella, molto bella, molto carina, proprio sì, bella. E poi che altro? Ecco, io ho conosciuto la scrittura semica grazie ad Alberto, perché grazie ad Alberto ho conosciuto Marco Giovenale, che è un grandissimo intellettuale e poeta, e quindi la scrittura semica, scrittura semica, semic writing, sono insomma delle scritture che simulano le scritture, no, di vario, calligrafie di vario tipo, sono illeggibili ma hanno un mondo pazzesco dietro, insomma veramente molto interessante. Quindi per questo ho presentato anche un'opera di Marco Giovenale, e lì mi ha dato spunto per studiare queste scritture asemiche di cui poi mi sono un po' interessata. Quindi questo grazie ad Alberto, perché senza quello spazio, che io definisco un po' asemico effettivamente, è labirintico, ha delle parti che possono smuovere ad esempio le cantine, ma anche a volte la saletta buia è qualcosa che tocca anche un pochino le viscere, secondo me, cioè qualcosa di viscerale, e poi però c'è questa cosa gioiosa, aerea, che invece pervade un po' tutto lo spazio, per cui credo che sia una cosa bella. Bene, grazie. Grazie. Ringrazio tutti loro con i quali ci siamo divertiti tantissimo, ci continuiamo a divertire. E adesso Melissa Lohmann dove ci conduce? Beh, siccome era un incontro anche sullo spazio e la realtà, cose che abbiamo fatto lì. Ecco, Melissa, abbiamo fatto tantissime cose. Sono stato anche censurato da Facebook per una performance con Flavio. Flavio sta fuori. Per un mese. Sì, Flavio nudo mi hanno censurato. Sì, mi hanno oscurato. Ma non so, insomma, avete fatto veramente tantissime cose bellissime. Sì. Beh, è per Luca Venitucci che ci conosciamo. Sì, è vero. Sì. Forse proprio per Boario o prima, non mi ricordo. Forse prima. Ma allora pensavo di riportare un'azione che ho fatto lì allo studio, che poi sì, è diventato una piccola installazione nello spazio, Monster Me. Pensavo faccio un piccolo tocco di Monster Me. che andrò fuori adesso e faccio una volta, lì era ripetuto e vedrete perché, ma mi sa che era anche la prima cosa che ho portato, adesso mi ricordo bene. Sicuramente è stato un evento che dal tuo titolo poi è diventato un evento molto più grande, perché molto in quel grande periodo avevano restituito un appartamento, non quello di mia zia, un altro appartamento, l'avevano restituito con un po' di oggetti, non pienissimo appunto come quello di sopra, ma insomma con degli oggetti, e quindi avevo invitato diversi artisti, Silvia, Jacopo, Isabel, e ognuno non doveva portare assolutamente nulla, ma doveva semplicemente allestire o inventarsi qualcosa con quello che trovava nell'ambiente. E Massimo anche ha partecipato, perché in quell'occasione abbiamo ideato, insomma abbiamo ricostruito l'ultima scena dell'ultimo film di Pasolini, Salò. E Massimo poi ha detto una cosa molto bella su Salò, su come fu recepito, no? Negli anni in cui sì, ci ho messo mezzo anche le cose mie. Beh, ma diciamo esatto, di tuo padre, mi pare. E, però il titolo di tutto l'evento è Monster Me, che io le ho un po' rubato forse, no? Perché spero che sia stato un furto. Non volevo dirlo. Un furto, rubato, nel senso lei era consapevole, però insomma lei ha ideato questa performance, e poi diciamo la mostruosità si è allargata a tutto l'ambiente, e quindi sono molto contento. E quindi volevo giusto così per ricordare questa cosa di portarlo qui, che giusto così gesto di performance, che io non mi permette mai giusto di parlare, devo sempre anche fare vieni a fare qualcosa, gli altri parlano e io devo andare come se invitando un calciatore gli chiedessimo di palleggiare, no? Esatto. costruire un matematico deve metterci a fare la cosa, un muratore deve costruire un muro. Vabbè, faremo un incontro solo parole. Beh, secondo me tu, anche solo se parli così, è già una performance. Posso dire una cosa? Io ho visto la cosa che hai fatto per Jacopo nello studio di Cinzia, e quindi meno male che invece cioè che fai una cosa. No, sono molto contento e ti ringrazio. Io sono abbastanza anche commosso di vedere quella che diciamo quella cattedrale che è lo studio di Campobuoio, che si concentra, che è venuta qua dentro, no, con tutti i suoi protagonisti, e in uno spazio così piccolo, quella che è una cattedrale con alcuni dei suoi con alcuni, certo. E mi colpisce questo programmatico oblio che lui, come una specie di file di virus, ha inserito nella cosa, per cui piano piano già lui non si ricorda più le date di quando è successo, quando poi tra 100 anni Alberto non ci sarà più, sarà svanita pure Campobuario, nessuno avrà tenuto una che quando è successo, che anno era, eh? Era stato chiesto di farlo, io ho chiesto ad Ada perché non lo facciamo. Ada c'ha meno memoria. Ada, sì, insieme siamo. Beh, ci sono i social però. Allora a questo punto se la nostra. Come noi rimaniamo qua dentro o ti guardiamo da che preferisci? Forse o da fuori andiamo in strada, ti guardiamo da fuori. Ah, da fuori da me. Sì, forse da fuori. Se andare fuori, io faccio le che tu stai, no? Quando io lo fare anche qua, non lo so. Posso venire qua? No, nel senso tu hai organizzato un set fuori, no? Beh, giusto così, pensavo. Noi possiamo venire fuori, però ti dicevo, se vuoi, se preferisci che ci mettiamo lungo la strada, così c'è tutto lo spazio tuo. No, decidi tu, Melissa, decidi tu. Allora andiamo tutti fuori. Veniamo fuori con fuori, andiamo. Bene, grazie. Fine dell'incontro. Ciao. Ciao. Fuori.